cosa deve essere, non è che sono bicchieri o cose, è la sua timbrica. Adesso gli ho tolto la retina che c'è dentro e lo sto provando senza retina. Allora, quando cambiamo, aumentiamo l'impedenza da 54 metri a 69 kilo, cioè, 69 k c'ha l'impedenza. Sì, nella capsula c'è scritto 69k ed è originale Turner, c'è scritto Turner 69k, originale, è tutto originale questo microfono. Ma l'MC60 ne ha 50, per cui già variando l'impedenza, tu quando crei una resistenza superiore a quella standard, tagli completamente le frequenze basse, a te ti mancano tutte le frequenze basse, stai lavorando dai medi in su, tutte le basse frequenze ti mancano, non è una critica, è una considerazione logica e fisica. Con quel tipo di microfono, con la radio non va come dovrebbe andare, magari lo provi su 10.000 altre radio e funziona perfettamente, l'appunto era solo su quello. Dopodiché, come hai detto Giulio, si sente sotto, tipo quando dei bicchieri che sbattono, e sono le tonalità acute che stanno andando in saturazione, senti tin tin tin tin, un rumore così metallico. Si potrebbe provare a attenuarle, se vuoi fare una prova, a mettere un'ovata davanti al coso, alla capsula, e magari qualcosa migliori secondo me. Prova a fare così, Claudio. Scusate, senti Claudio, vediamo se è abbastanza fedele, senti. Sono bicchieri, non sono gli acuti, è quello lì, sono gli acuti. Dai. Adesso provo a fare un'altra modifica e vediamo un pochino. Allora, qua c'è una differenza però da fare, scusate, allora lo sollevo perché ce l'ho aperto. Allora, questo è il passaggio numero uno, qua sotto c'è un interruttore, ecco qua, qua sotto c'è un interruttore, cambia qualcosa da questo passaggio a quest'altro passaggio, ha cambiato qualcosa? Aspetta, fammelo più lento il passaggio, forse sì, prova. Allora, questo è il passaggio numero 1, passaggio numero 1, passaggio numero 2, cambia qualcosa? Il numero 2 è meglio, ti toglie quei picchi degli acuti, saturi, che gli acuti sono, questo secondo è meglio. Abbiamo visto, io manco l'ho visto questo interruttorino sotto. Giulio, da te è migliorato qualcosa? Il secondo passaggio diventa migliore qua. Ok, perfetto. Adesso andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra cosetta da toccare. Continuate, poi vi richiamo. E poi abbassa un peluzzino qua e prova a fare come ti ho detto io, se c'hai dell'ovatta, quella che c'è dentro, per dire l'MP4+5, prova a appoggiarla davanti dalla capsula, se ti taglia un po' con le frequenze acute. Cos'è questo ovatta? Ma quella retina? No, la retina non c'entra niente, anzi la retina peggiora perché ti riflette, è riflettivo il coso. Provare se c'hai tipo cottone, quelle che usano le donne per pulirsi il viso, a toglierne qualche strattino, glielo metti davanti alla capsula. Ah, sì, ce l'ho, aspetta, riprendete. Ma mi sento, sembra che ci sia Eugenio in lontananza. Eugenio, tu sei? Ah, fa 21, ciao Riccardo. Chi sei? Ah, la corte sei Riccardo, dai, ti sento basso, forse Giulio ti ascolta meglio, avanti Giulio. No, non lo sento, no, è macchina, è troppo lontano, non lo sento, Robè, non lo sento per niente. Scusatemi un attimo, che mi hanno chiamato, un secondino, riprendete voi. Che da bracco. Ok, d'accordo. Antonè, allora, stai pensando all'antenna? Buongiorno, sono Bracco, cioè Giovanni. No, volevo dire, Roberto c'è per caso? Sì, si è appena allontanato al telefono, forse, Bracco. Naggia la miseria, il mio tagliantrino sparisce questo. Vabbè, continuate, va voi, al limite il telefono. Aspetta qua che già rientra subito, deve essere che l'ha squillato il telefono, già rientra subito. Vabbè, continuate comunque, eventualmente se rientra, rientra anch'io, dai. Ok, d'accordo, dai. Antonello, avanti. Ma vedi che vedi ha migliorato un pochino, sicuramente c'è qualche regolazione da fare, però penso che la registrazione che ho fatto era abbastanza fedele, sì, con telefonino. Sì, Antonelli, no, ma c'era il difetto, altro che se il difetto, poi naturalmente se lo vogliamo chiamare difetto, però c'era, altro che se c'era. Sì, ma ho visto che ha trovato, diciamo, il compromesso giusto, alla fine, ha fatto la piccola modifica, il gioco è fatto, ma va bene, la modulazione c'è della presenza, ma diciamo che si riesce a risolvere il tipo di tributo, alla fine, il difetto di modulazione, in modo da cercare di abbinare il microfono alla parata. Adesso io ho fatto con il DP4 col Volta, questa è la prima volta che l'ho abbinato, sembra che vada bene, dovrebbe sentire presente la modulazione. Anch'io sto usando l'MB+4, Antonè, sto usando anch'io l'MB+4 a 5 di volume, spero che tu riesca a sentirmi bene, ma visto che mi stai rispondendo suppongo che capisci quello che dico, a differenza mia che sei nel QRM, ma quella è questione di segnale, di potenza, e allora a volte faccio molta difficoltà ad ascoltare quello che dici. Ecco, vabbè, succedo con un soffato, una cosa del genere, non di più, ma si mi presenta anche la zona più brutta, le orti, dunque meno male qualcosa, ma io ti ascolto benissimo, giusto, da 5 a 7, ottimi positivi, nella parte mia, radio superficie, sono non pensi più. Sono rientrato io comunque. Ok, riprendi. C'era Bracco che ti stava cercando, Robe. Sì, adesso, io vado avanti. Sì, ho capo. Ascolta, ma a Fabio l'avevi rintracciato. Sì, a Fabio l'altro giorno era in frequenza, tre giorni fa, gli ho detto che non stavi cercando per mettervi d'accordo e basta. Poi io non lo conosco, ripeto, l'ho sentito un paio di volte qua in radio, non so neanche chi sia. Però se c'è il tuo numero, magari mettetevi d'accordo. Oh, Robe, sono rientrato, e come va? Meglio. Frequenza, naturalmente. Aspetta, parla. Non posso parlarci, quello è logico. Va bene, Robe, rimani in ascolto, dai, continuate. Aspetta che c'è la Claudia, avanti Claudia. Ok, ho detto, ho fatto quell'altra modifica e volevo sapere se andava meglio di prima. Quello che l'ho fatta sicuramente è molto meglio, vedi che piano piano sta iniziando a migliorare. Sì, ma c'è anche la posizione che è questa. Allora, questa è quella, mi avete detto la numero. Questa è la posizione numero 1 e questa è la posizione numero 2. Aspetta che lo rimetto davvero, ecco. Questa è la posizione numero 1. Va meglio di prima o che cosa c'è, Giulio? Sì, per me ha migliorato abbastanza, si sente appena ma quasi impercettibile il rumorino, ma quello così va bene qua, non c'è problema. Di più non si può fare perché la timbrica di questo microfono è questa qua. Va bene, dai, comunque così. La timbrica è questa, gli ho tolto quella spugnettina che c'era dentro, ne ho messo una un pochino più grossa e basta, questa è la timbrica e non so cosa dirvi. Se si può accettare va bene, se no lo cambio e lo metto su un'altra radio, dai. No, Claudio, è migliorato tantissimo. Se tu fai il raffronto da come sei entrato la prima volta, hai migliorato di tantissimo, ma tanto. Va bene, la radio è chiara, potente e niente da dire. Diciamo, le tonalità non sono le ideali che c'hai sempre tu, però ti ascolto rispetto a prima, hai eliminato tanti difetti. Quello va, ti ha tagliato un pochettino gli acuti, per cui quel microfono lasciarlo stare così, non toccarlo, perché sennò devi variargli un po' l'impedenza, che magari variando un po' l'impedenza, abbassandogliela un pochettino, riesci a tagliarti con gli acuti e sollevarti un po' i bassi. Ma lasciarlo così, è originale, non toccarlo, è perfetto. No, beh, cosa, qua non puoi toccare niente, no? Non è che all'interno puoi metterti a giocare, a fare. Questo qua e basta, dai. Sono a 30 cm dal microfono, non è che posso parlare anche così, ma è così magari è più brutta, no? non so. Non cambia allontanando e avvicinando, si abbassa solo un pochettino di quello. No, ma la radio è 5, perfetta, pulita, niente da dire. Ti ripeto, solo l'unico problema è la tonalità delle cose, dei toni, diciamo, c'hai sempre un po' più di medi e di acuti rispetto ai bassi, però la radio è perfetta. Ok, vediamo Antonello Barracuda, chiediamo anche un parere a lui. Allora, ripeto, che per me così è perfetta, adesso sì che si sta ragionando tutto benissimo, tutti i difetti che c'erano prima, secondo me, non esistono più, perfetta, veramente perfetta, a me piace tantissimo. Pulita, pulita, ben amplificata, va più per te, e a quella che ha migliorato, dal giorno alla notte, questo è il mio parere. Ok, ti ringrazio Antonio, dai. Non è comunque che sta bombardando come l'altra roba, è molto più bassa rispetto al 60, io sono in cuffie, vabbè. Sì, sento tonalità più medio-basse, che adesso sono mancati un po' gli acuti. Giulio, a te il cambio? Va benissimo qua, così va benissimo, non ci sono più quel frassuolo che c'era sotto, non c'è più, quello vabbè, evidentemente dipendeva dalla capsula, adesso tu l'hai, diciamo, in un certo senso soffocata con questo coso che gli hai messo davanti e va bene, però io dico che si può, volendo, al limite, si può sempre fare qualcosa, mettere in parallelo la resistenza alla capsula, sicuramente ti cambia l'impedenza, si cambia e puoi trovare la soluzione giusta per evitare quello scricchiolare che c'era sotto prima, però hai già trovato come fare e va bene così, lascia così che va benissimo. Sì Giulio, questa è una cosa interessante, perché potremmo appunto da 69k portarla a 50, portarla a 50, è chiaro che vai a eliminare tutte quelle cose, sì. Interessante questa cosa che mi hai detto, adesso vediamo un po' cosa posso fare, va bene, però mi sto ascoltando e c'è stato, con il vostro aiuto naturalmente, un miglioramento notevole, molto, un incremento notevole. Tenete conto che io il mic gain della radio ce l'avevo molto alto, adesso l'ho messo praticamente tra lo 0 e l'1, prima era tra l'1 e il 2. È il microfono che ti mando la foto, sia a te Giulio che a Roberto, a te, te l'ho già mandata, guarda la posizione di dov'è il potenziometro, è praticamente tra l'uno e uno e mezzo, non lo so, perché vedi, guarda, se io vado a fare così, guarda, ora 1, 2, 3, 4, vedi, così l'ho aumentata a 2, così l'ho aumentata quasi a 2, prima ce l'aveva 1, adesso è a 2. Ha migliorato qualcosa secondo voi o è meglio riabbassarla com'era? Ma io dico che secondo me era meglio tenerla bassa, perché quando gli dai gli acuti, cioè aumentando, subito si manifesta un leggerissimo, non da fastidio, sia ben chiaro, però un leggerissimo ritorno a quella specie di scricchiolio, ma niente di particolare, comunque così è sempre bassa e va bene ugualmente, non ci sono dubbi, però io la preferisco come la prima, quando il marchigate era a 1 o giù di lì. Ok, avanti e poi vai, fai girare. Allora, quindi questo è a 1,5, la rimettiamo a 1, eccola qua, così era prima e la lasciamo stare così. Ok, e puntelliamo, dai. È una prova tecnica di trasmissione, te l'ho detto ieri che dovevo ritirare questo microfono, purtroppo non posso usarlo su altre radio perché c'è il connettore Kenwood e gli adattatori, Giulio, ce li ho al contrario, capito? A me mi servirebbe quello da 4 a 8, invece lo ce l'ho da 8 a 4 e quindi non va bene. Va bene, teniamo così allora, faccio girare. Roberto, a te il cambio, salutando anche Giovanni. A te Roberto. No, così hai migliorato tantissimo Claudio. Poi il discorso dell'impedenza, per ridurla basta mettere una resistenza, gliela abbassi un pochettino e gliela cambi, e gliela metti in coso, in parallelo per abbassargliela. Cosa volevo dire? Io direi lasciare stare tutto così, visto che c'è un microfono originale, un gran microfono, te lo tieni così, poi se devi usare, migliorare la qualità di emissione come modulazione, ti tieni i soliti che c'hai tu, visto che ne hai diversi. Ok Giovanni, a te il mic. No, io Robert, sai cosa faccio, intanto ci siete voi qua, ok? Ci siete voi qua, io adesso riapro, siccome c'è una busta di resistenze, guardo se ce n'è una da poter inserire da 50 e poi vi richiamo. Va bene, intanto ho già attaccato il saldatore e tutto, lei, così mi fate compagnia. Sono qua, il cambio per... salutando Riccardino, ciao Riccardino, un abbraccio grande, buongiorno e buona domenica. Ti ascolto magnificamente bene lì da Campanella, mi sembra che sei, eh? Anzi, ti ripasso il cambio, poi vai tu per Antonello Barracuda, se ci sei. Riccardo, mi ascolti? Ti sento benissimo, stamattina ti ho mandato la foto di questo microfono, vedi? Se lo trovi, questo è un buon microfono anche per te, perché è un microfono degli anni 70, quindi dovrebbe funzionare molto bene con quelle radio che hai, ok? Comunque ti ascolto magnificamente, ciao, buongiorno e buona domenica. Avanti Antonè, io rimango in QRX e riapro la capsula, vedo se c'è il posto per mettere una resistenza. Praticamente Giulio la metto in mezzo ai due poli, a quello rosso e a quello nero della capsula. Esatto, quello lì metterla in parallelo, non in serie, in parallelo, così si abbassa un pochino l'impedenza sicuramente, perché l'impedenza della resistenza diventa, diciamo che non fa altro che equiparare quella della capsula, e dovrebbe cambiare sicuramente da l'impedenza, per cui probabilmente basta fare quello e dovrebbe andare meglio, perché si sa, solitamente occorrono 600 ohm occorrono per i microfoni della 27, quello invece è tutta un'altra musica, per cui evidentemente non è proprio il massimo per la frequenza che serve. Vabbè, comunque prova, mettilo in parallelo e poi ne puoi cambiare diverse di valori di resistenza, perché a seconda della resistenza ti abbassa poi anche gli ohm, ti abbassa della capsula, tutto lì ho qua in parallelo, sì, filo rosso, filo nero del filo che va alla capsula, attaccato lì lo devi mettere, non metterlo in serie perché sarebbe peggio, sarebbe che allora aumenterebbe ancora. Avanti, intanto saluto a Riccardo, se mi sta ascoltando, ma suppongo di sì, ma io a lui non lo sento, è lontano, evidentemente è in macchina, non riesco a sentirlo, però c'è Antonello anche, avanti Antonello. Sì, lei bastano valori, basta provare, prenderselo qua per vedere il giusto compromesso, perché se no bisogna fare le operazioni, diciamo, con il coso, calcolo matematico, e ti dice esattamente per calcolare il coso, ma molte volte non si ha quel valore esatto, per cui bisogna fare delle prove, giusti compromessi, e vediamo un po', in parte che sia in parallelo, perché se la metti in serie la sommi a quello che c'hai già di valore. Facciamo rientrare un attimino a Riccardino, vediamo un po' se c'è ancora, era la corte comunque Riccardino, a meno che non si sia spostato, l'ultimo passaggio lo sentito era la corte. Avanti Riccardo. C'ho pure me altro, sta parlando ma non capisco quello che dice, ce l'ho in mezzo al correme Santiago 5, proprio basso. Ok, dai, riprendiamo noi, tanto è inutile se poi non lo ascoltiamo. Cosa volevo dire? Giulio, avanti a te, riprendete il mic. Ok, vabbè, sì, perché in effetti è così. Sì, è voi, io per Alghero, la corte verso Alghero, per cui si sa, lì ci arrivo male, anche se riesco a sentire, però, cioè riesco ad arrivare in maniera abbastanza bassa, ma però non tutti riescono ad arrivare qua. Tu pensa che quando c'è Valerio, per sentirlo discretamente deve mettere 300 watt, per sentirlo Santiago 5 qui da me, da Alghero, sì, che siamo nel paraggio di Alghero, verso la corte, Palmaro, la corte, quella zona lì, per cui non è l'ideale per la zona dove sono io. Sì, ma è così, ho di qua, ho Roberto. mettendo una resistenza in parallelo si adegua al valore della resistenza stessa, si adegua, per cui deve fare quella prova e vediamo un po' che cosa risolve, e se no andava bene mettendo, come ha fatto ultimamente, quelle regolazioni, andava ugualmente bene, non è che non andava bene, però diciamo, per evitare tutte queste cose, intanto serve anche come esperimento, non personalmente per Claudio, ma serve per tutti noi, così sappiamo anche come ci dobbiamo comportare in certi momenti. Va bene, faccio girare per Antonello, vai Antonello. Prendo io? Sì. No, stavo guardando, domani piove, e in materia di attesi temporali in giornata, un po' di acqua ci sarà, da domani, vediamo lunedì, scusate. Con l'ombrello ben coperto, perché si vuole bene, tranquillamente. Va bene lo stesso, è bella sotto la pioggia, è stata una giornata sotto la pioggia, è bello, è la passeggiata, l'ombrello, è un caffettino, anche a distanza, ma fa piacere, ritorna un po' la vita la sera. Dai, così la marca tutte le cavallette che ci sono nella piana di Bolotta, nella di Ottana, l'avete visto quel video? Ma perché è successo? Ci sono milioni di cavallette, c'è un'invasione come l'estate scorsa, una cosa spaventosa di cavallette nella zona di Coso, speriamo che non arrivino dalle nostre parti. Ecco. Prova qua. Allora, questa è una che ho trovato, però non leggo l'impedenza. Ditemi se è successo qualcosa, se no la stacco e ne provo un'altra, perché non leggo niente qua. Diciamo, differenza non è che l'abbiamo sentita più di tanto, è sempre discreta la modulazione come prima, però non ho memorizzato esattamente il valore, bisogna fare il lavoro appoggiando e staccando per vedere la differenza. Per me è molto meglio, ecco. Bellissima, non la doppia, avanti. Mettine un'altra un po' più alta, Cla. Ne ho una bustina, però non riesco a capire. Allora, a orecchio, perdonatemi, siete tutti eccezionali, dandomi una mano perché se no non metto il goppiedi. Chi era? Tino? Tino, sei tu? Con questa resistenza va meglio? No, è migliorato con quella di prima, quella di prima non, sì, anche se la timbrica dei vecchi microfoni era quella, però era troppo, come ha detto Roberto, per me questa qua è migliore. Questa va meglio quindi, con questa resistenza. Ok, ne provo un'altra, continuate pure, io vi sto seguendo, ne provo un'altra perché mi sembra che questa vada un po' meglio. Se sentite qualche rumore è perché sto muovendo il microfono, ok, arrivo subito, avanti Giulio, riprendi tu, cosa ti sembra, meglio di prima? Sì, decisamente meglio qua, decisamente meglio. Dimmi che colori hanno quella resistenza che hai messo, i colori dimmi. Allora, questa è verde, marrone, rosso e viola. Verde, marrone, rosso e viola, è alta, molto alta, molto alta. Provane un'altra, dai qua, provane un'altra. Mastro Giù, dammi qualche colore, perché ne ho un bel, non si legge niente. Che colore posso prendere? Claudio. Guarda se trovi qualcosa sul marrone, marrone e nero, marrone e nero, o al massimo rosso, rosso rosso, due volte rosso. Ascolta, ne ho una rossa, rossa marrone. 2200 ohm, prova, ma è troppo alta suppongo. Se c'è qualcosa di marrone e nero, guarda marrone e nero. Sì, poi ne ho un'altra, rosso, marrone, nero. Ecco, prova quella, prova quella. Però questa va benissimo comunque, però non va a mettere da parte, al limite la rimetti poi. Claudio. Ehi Antonio, sì, adesso ne provo quella rosso, marrone e nero. Questa la stacco e la metto da parte. Dimmi Antonio. Aspetta, guarda qua. mi sento benissimo con questa, La registrazione da quella che mi ha mandato Tino inizialmente a questa qua c'è un abisso, completamente un abisso, quindi potrebbe già andare questa, però voglio provare quella che mi ha detto Giulio, dai, provo questa che mi ha detto Giulio, ok, continuate, avanti Robby. Sì, hai migliorato tantissimo, confermo, provo un altro valore di resistenza, ho visto già sulle tonalità basse si stanno sollevando e si stanno abbassando molto i midi, per cui quello che stai compensando da una parte, togliendo da una parte le compensi dall'altra, dai, sei sulla buona strada, adesso provo a provare un'altra resistenza e vedi il giusto valore, diciamo, quello che si abbina di più, dai, sicuramente è molto molto meglio rispetto da quando sono entrato all'inizio. Ok, dai, che la di saldo, va bene. E c'è anche Tino. Tino, vuoi riprendere? No, fate voi, sono ancora che sto facendo delle connessioni microfoniche che mi si è spallato un pochino, poi mi spiegherete anche il perché, se sapete qualcosa voi. Il più 5 ora nell'HR 5005 lo accendo e va importante. Schiaccio la portante e mi cambia i canali, quindi c'è qualche cosa nelle connessioni sicuramente che non va. Quindi lo sto controllando, sono in QRX e nello stesso tempo sto cercando di fare queste cose qua, dai. Ok Cettino, siamo qua tanto, ok, riprendi Giulio. Ok Tino, stacca dalla portante, stacca i due fili dell'up down, è quello, hai collegato i fili dell'up down alla portante, alla trasmissione, spostali, non devono essere messi lì. No Giulio, allora era un microfono che era già collegato e stavo sempre utilizzando quello, non so, magari spostandolo così è successo che ho piegato il carretto, quindi uno dei fili tocca, perché sono quattro fili che ho saldato io, capito? E magari toccano i fili, Tino, controlla bene gli isolamenti che si hanno separati. Lo so, prendo per quello. Va bene, però se parlo non riesco a fare niente. Prima che quel Rick, già sono qua. Ok, adesso vediamo se Riccardino c'è ancora, se in quel ricoso di, come si chiama, di la corte. Ci sei, forse lui sta andando, secondo me, a volare col parapendio o all'argentiera. Confermi Riccardino se ci sei. Ieri l'ho conosciuto. In gamba? Sì, anche al padre. È venuto, eravamo noi aggiustando l'antenna, quindi ci siamo conosciuti. Va bene, dai, a dopo. Ma come non è andata a ripunti? Stavo andando a ripunti e l'ho bloccato io, se no era convinto fosse la vecchia stazione, quella storica di Walter, dai. Ok, continua così non ti rompiamo le scatole. Fino, vai Giulio. Ok, sì. Va bene, dai. Vediamo un po' adesso quando è pronto Claudio, che differenza ci può portare cambiando la resistenza. Vabbè, comunque hai visto cosa vuol dire alle volte o robe. Basta sapere le cose, perché se uno non le sa è chiaramente è come fare un buco nell'acqua, ma se uno le sa, diciamo, io senza presunzione, qualche infarinatura di elettronica ce l'ho, non sono un radiotecnico e tantomeno un tecnico elettronico, ci mancherebbe altro, però una piccola infarinatura ce l'ho, perché sono dovuta alla pana, ci sono, da sempre, solo per quello, Rome. Aspetta, vai qua. Eccomi qua, allora ci sono, questa è l'altra resistenza o robè, questa praticamente è quella rossa, marrone e nera, ha migliorato qualcosa? Io non ne noto differenza, tu giù? No, mi sembra comunque pulitissima, va bene anche questa, non c'è problema, qua. Va benissimo anche questa, senz'altro l'impedenza di quella capsula è stata ridotta di molto anche, no? Non di poco, perché quando metti le resistenze in parallelo, l'impedenza l'impedenza più alta si adegua all'impedenza più bassa, non so se mi sono tirato qua. Ma le può mettere qua, falle tutte e due insieme, fai una prova senza saldare, le puggi così e noi ti diciamo com'è. Ah, bene, bene, bene. Sì, questa è praticamente quella, l'altra, questa è l'altra. Questa è l'altra. Allora, adesso come mi stai dicendo tu e come cacchio faccio? Allora, aspetta che l'appoggio, Allora, aspetta. vediamo con la pinzettina. Allora, adesso questa è una. Ecco qua, e questa è attaccata, c'è anche l'altra attaccata. Guarda, la sto mantenendo col dito, ha migliorato qualcosa? No, è peggiorato. Se le ha messe tutte e due insieme le ha messe. Sì, così sono tutte e due insieme. Così sono tutte e due attaccate, l'attacco. Prova senza di quello. No, ecco, che mi veniva male, dai. Così invece ce n'è una sola, quella rossa che mi ha detto Giulio, rossa, marrone e nera. Lascia così qua, va bene, dai, è ottimo. Altro giù. Tecnicamente non sei solo falegname. Vabbè, non sono nemmeno un elettronico qua. Comunque, va bene così. No, vabbè, io queste cose le ho, ripeto, tu lo sai, la passione che ho sempre avuto, per cui qualche piccolissima infarinatura di elettronica ce l'ho, non molto, ma soprattutto in fattorie di antenne, eccetera. Comunque, va bene così, dai. Va bene così, lasciala così, clac, va bene, no, non c'è problema. Gappa. E poi bastano piccole correzioni, se uno poi si vuole attentare di più, io di questo fatto dei cambiamenti di pendenza, quando fai crossover per le casse, tagli le frequenze, vedi, ma se ti cambia totalmente a seconda del numero delle sfide che metti, soprattutto per i bassi, il diametro del cavo, cambiano totalmente i valori, poi te li vedi tu, cacchio, non è solo l'orecchio, li guardi strumentalmente e dici cavolo, basta una cagatina, un componente, da niente, e ti taglia completamente. Infatti fitti quando vuoi. Non so se l'avete visto nei Twitter, basta mettere il condensatorino e ti cambia completamente, ti taglia tutti i bassi. E ci metti le cose, queste spire, queste impedenze, qua la stessa cosa. Per trovare il giusto valore si può fare calcolandolo con il coso matematicamente, oppure si fanno dei tentativi, che è la cosa più comune. Molte volte c'è tante resistenze e poi i valori riesci a sommarli, a sottrarli, eccetera, a seconda del collegamento riesci ad adeguarti al valore più adatto. Certo, ma infatti è così. Infatti è così, quando tu hai una resistenza per dire alta, però ti serve un valore basso e non ce l'hai, ne metti una più bassa e il valore della resistenza alta si adegua alla resistenza più bassa, diventa così, non è... Sì, vabbè, dai, ma sono cose ormai che sappiamo, perlomeno io qualcosina adesso, non molto, ma qualcosina già ne mastico, dai. Va bene, lascia così comunque qua, che va bene, dai, finalmente mi è risolto il problema dei bicchieri che suonavano, vabbè, non è così. Ma queste sono le cose interessanti, quando io vedo questi lavori qua, che uno si mette e prova a fare, guarda com'è quello, queste sono le cose interessanti, non di tanti coiseo che molte volte sono monotoni, si parla di bassa asciutta, di quello, della... quando si fanno queste prove c'è qualcuno magari che sa qualche informazione che non conosce, lo ascoltiamo, proviamo e vediamo se si trovano i risultati, non per forza criticare, tu sei accusando con Ghito, tu c'hai quello, c'è quell'altro, e iniziano le polemiche. Adesso molto tranquillamente, ascoltando delle informazioni approvate, abbiamo visto che ci sono stati dei grandi miglioramenti, ma enormi miglioramenti, e questa è una cosa bella, è un piacere che succedano queste cose qua. Ok, e vediamo se qualcuno vuole rientrare qua sul canale 10, avanti. Allora, io ho cambiato nuovamente e ho trovato quella che mi ha detto Giulio, marrone e nera, Giulio, una marrone e nera, però era già saldata, spero che stia funzionando. In pratica l'ho pulita e l'ho saldata. Secondo te lasciamo questa, va bene? Va benissimo, hai messo una resistenza da 100 ohm, hai messo, va benissimo, qua, lasciala stare che va benissimo. Oh, perfetto, intanto vi ringrazio di cuore veramente, perché a questo microfono ci tenevo tanto a farlo uscire bene, e con queste radio non è facile, quindi col vostro aiuto e soprattutto l'input di Giulio a mettere una resistenza è stata veramente una cosa molto, molto interessante. Ok, quindi lo lascio stare così, questa è una resistenza da 100 ohm, mi dici, perché non c'è scritto niente, quindi i colori equivalgono a quello, va bene, la regolazione è quella che abbiamo fatto poco fa, la radio è A1, i il microfono è quasi a 1,5, ok? Quindi Robè, penso che insomma meglio di così non si possa fare. Vi ringrazio veramente, lo posso chiudere quindi? Sì Claudio, sono contento che sei soddisfatto anche tu, ma ti ripeto, quando sei partito all'inizio io te l'ho detto, non andava bene, poi Giulio l'ha confermato, bisogna accettare anche la realtà. Adesso finalmente stai andando come deve andare. Luca, a me la gente che apre la bocca e lascia andare lo spirito non è che mi piace molto, uno deve parlare con cognizione di causa, secondo il mio punto di vista. Io l'ho sempre detto, la radio non serve solamente per parlare di pasti e fagioli o di gamberi, serve soprattutto per parlare di elettronica. Naturalmente la gente evidentemente ha poca passione, alle volte sentire argomenti improntati sull'elettronica forse si annoia o forse è troppo difficile per certi menti, e allora non ha successo questo tipo di dialogo in frequenza. Per cui però se una persona ha un minimo di intelligenza, anche se non sa e se non piace, dovrebbe rimanere un po' all'ascolto, almeno imparerebbe anche qualcosa. Io la penso così qua. Confermo, c'è sempre da imparare, nessuno poi è perfetto, soprattutto in campo elettronico, ci sono sempre, ieri hai fatto vedere col discorso delle cariche elettrostatiche, io l'avevo visto tempo fa, non l'ho mai fatto, ma bisogna provarlo, è vero, l'avevo visto sulla rivista anni fa, è una cosa, può essere interessante, magari qualcuno scopre qualche sistema nuovo. A me mi hanno insegnato delle cose che io neanche mi sarei mai immaginato, dei circuiti, cose semplici, quando c'è gente che ha provato, le ha fatte, è sempre un piacere, bisogna avere l'umiltà di ascoltare soprattutto, e non dire sì sì io l'ho fatto sempre così e per me va bene, non fa. Purtroppo è così, senza offendere nessuno, però tante volte le persone, anziché comportarsi da persone intelligenti, diciamo che tralasciano l'argomento proprio per occuparsi magari delle cretinate e non di cose più interessanti che possono riguardare il mondo della CB e dell'elettronica in generale. Poi si sa, una cosa dico io, una cosa dici tu, una cosa dice Claudio, così via, alla fine si arriva ad una soluzione valida, come ad esempio è successo stamattina. Non andare a dire la caratteristica del microfono, boom, bau, sacco di male. Ebbene, se la caratteristica del microfono è anche corrigibile, come vedi, ragionandoci poco poco sopra e mettendo a frutto un minimo di esperienza che abbiamo, siamo riusciti ad ottenere il risultato migliore in assoluto. Io ho ragione in questo modo, poi ognuno la pensa come crede, da sin da tutti, può darsi che qualcuno ti possa dire anche per malo. E da Rosa, vabbè, comunque, nessuno è professore, questo sia ben chiaro, Avanti Claudio. Ora, ok, allora, riprendo io e vi ringrazio tantissimo, lo stavo chiudendo, scusate se non ho ripreso subito, ma vi stavo ascoltando. Giulio, io non ho, lo sai che sono di poche parole, perché poi quando parlo e apro la bocca faccio male, capito? Qualcuno mi definisce anche peggio, però la gente prima di aprire bocca deve imparare tante cose. Intanto apprezzare le persone più grandi, le persone competenti, le persone che hanno avuto esperienza prima di noi, in questo caso tu in prima persona, e bisogna apprezzare soprattutto quando uno ha bisogno di consigli, non deve avere vergogna a chiedere, capito? Perché tutti siamo bravi a parlare con la bocca, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. E chiudo il discorso. Purtroppo non tutti la pensano alla stessa maniera. Avanti Roberto. Sono d'accordo pienamente con voi. Purtroppo ci vuole molta umiltà e meno presunzione in tante cose, in tutti i campi, non solo in campo radioamatoriale o campo di qualunque genere di cose. C'è sempre qualcuno che ha da insegnare, poi se la persona di strada o il più grande grande ricercatore dell'università più importante del mondo, c'è sempre da imparare e bisogna cercare di ascoltare e avere la capacità di rubarle certe informazioni, anziché dire vagosa eccetera eccetera. Va bene, io sono un grande curioso, ascolto tante persone e poi valuto con le mie intelligenza, poca o molta o media che sia, per cui chiudiamolo qua il discorso. Io vedrei un attimino di bianco, fare un attimino di bianco e vedere chi ci vuole entrare su questo canale, avanti su canale 10 chi vuole entrare. Ma chi vuoi che entri, Robè? Chi vuoi che entri? Non c'è cliente, è cuscendi, capito? E basta, tutto qua. Ehi, molta, molta più umiltà ci vuole. Il mondo della radio è fatto di tante cose, non vi devo certo insegnare niente io. Io ho studiato l'elettronica che mi serviva nel 1993 per potermi specializzare e avere la patente radioamatore. Dopodiché la passione dell'elettronica ce l'abbiamo tutti, però chi ha determinate capacità nel fare e nel seguire determinate cose è giusto che dia sempre una mano. E io la verità, non perché sia presente qua, ma con Giulio scambiamo tantissime tantissime informazioni su cavi, su tutto, su qualsiasi cosa delle radio, capito? E molta gente invece pensa di sapere chissà che cosa, solo mettere il cacciavite dentro, tocca un trimmer per sollevare l'LC, invece di pensare che lui sta sollevando l'LC, sta spostando una media frequenza, capito? Queste sono le persone che oggi esistono ancora nel mondo della radio, ma a livello diciamo generale, non solo a livello CB. Questo è il mio parere, Giulio. Io se una cosa non la so la chiedo, e se non so dove mettere le mani non le metto, ok? Al limite mi documento prima di mettere le mani da qualche parte. Tutto qua. Ok, a te, Giulio. Certamente qua, ma è così che bisogna comportarsi, perché nessuno è nato imparato, per cui se uno una cosa non la sa non deve avere vergogna a chiederlo, perché dal resto non è il nostro mestiere, questo hobby, pertanto c'è sempre qualcuno che una informazione te la può dare, e perché no? Io la penso in questo modo. Adesso tu che hai parlato anche di ALC, che praticamente in un certo senso hai parlato di prima, hai parlato, e io voglio fare anche un appunto su questo particolare. La gente non ha ancora capito che il trimmer non è altro che una resistenza, è una resistenza variabile, praticamente è un potenziometro, il che significa che è una resistenza, come lo è il potenziometro, come lo è quella resistenza che tu poc'anzi hai saldato, hanno sempre le stesse caratteristiche, con la differenza che ci sono resistenze fisse, resistenze variabili, resistenze regolabili in qualsiasi modo. Ad esempio, tornando al discorso del trimmer, quando uno mette il cacciavite dentro una radio ricetrasmittente per toccare il trimmer della ALC, ho sentito tantissime volte, scusate il passaggio un po' lungo, però è necessario chiarire una volta per tutti questa storia, dice bisogna utilizzare per forza, no, aspetta un attimino, per forza non esiste, il cacciavite anti-induttivo, no, assolutamente no, il cacciavite anti-induttivo si usa nelle resistenze a nucleo, di conseguenza quello sì, ma non nelle resistenze variabili tipo LC, perché? Perché è una resistenza variabile, sicché non influisce niente che il cacciavite sia anche metallico. Naturalmente, per prudenza, per non fare come è successo ad esempio a Gianni Lubrefetta da poco, che ci ha messo cacciavite il cacciavite metallico e sbadatamente poi ha fatto cortocircuito, questo è un altro discorso, però che venga influenzato la resistenza a trimmer quando si mette un cacciavite metallico solo balle, e viene influenzato solamente il nucleo anti-induttivo, cioè un nucleo con un avvolgimento dove c'è magnetismo, quello sì. Allora è necessario in tutti i modi mettere il cacciavite anti-induttivo, ma non assolutamente obbligatorio sul trimmer, questo no. Avanti Roberto. Sì, sì, naturalmente ci sono anche delle eccezioni per certi tipi di cose, di discorsi, dove ci sono oscillatori e cose del genere, bisogna stare anche attenti, perché basta che cambia appena il valore, toccandolo, basta un millesimo e puoi cambiare completamente tutto. E appunto, quello, ma non sul trim della LC, nella maniera più assoluta, perché non è un nucleo, quello lì non è un nucleo, è semplicemente una resistenza, come una qualsiasi resistenza che possiamo trovare all'interno di una apparecchiatura. No, perché ho avuto anche una discussione una volta, poi alla fine vi ho mandato anche tutta la documentazione scritta, perché ho trovato un qualcosa di scritto proprio parlando di quel particolare lì, con tanto di titolo di ingrandimento, dice: non è necessario utilizzare il cacciavite anti-induttivo sui trimmer, ma non sulle bobine, eccetera eccetera, sui trimmer è tutta una diversa storia. Ecco com'è. Avanti Claudio. Mi sembra aver registrato un break, lo faccio passare, poi Giulio ti devo fare un'altra domanda, che io purtroppo con tutta la mia buona volontà non ho molto, diciamo, forse nel tempo mi sono anche dimenticato, ma forse prima lo sapevo. I colori, secondo te mi serve il colore della resistenza che può più andare, perché ne ho tante. Avanti break. Mi sembrava di aver registrato un break. Più o meno, può esserci una resistenza per dire da arrivare, non dico a 50, ma a 55 almeno? No, ascolta, le resistenze hanno un valore obbligato, però si possono fare degli accoppiamenti, si possono fare, e cioè mettendo delle resistenze in parallelo oppure in serie, a secondo della necessità. È quello il discorso. Tanto per fare un esempio, cosa ti posso dire? Una resistenza, ad esempio, così a caso, 475 ohm non esiste, devi andare su o su 500 ohm o su 480 ohm, mi sono spiegato, ecco, ci sono queste variazioni, ci possono essere o qua. Posso aggiungere una cosa così? Certo. Allora, se vuoi fare delle prove, visto che stiamo parlando di resistenze variabili, Claudio, naturalmente ci sono quei trimerini, quelli che sta parlando Giulio, che variano di resistenza, cioè da un minimo a un massimo. Si può provare anche a fare delle prove di regolazione con un trimerino, mettendo anziché la resistenza una resistenza fissa, una resistenza variabile, e fare delle prove così. E si mettono due piedini, si saldano le cose e si fanno le prove, guardando naturalmente il giusto valore, che non sia troppo esagerato. Vabbè, il posto c'è, però non ce l'ho io quella roba lì, no, non mi fido a fare. No, perché allora io qua ne ho ad esempio due, Giulio, che sono tutte e due marrone e nera, è più bassa rispetto a quella che ho messo. Sì, marrone e nera, ti spiego subito una cosa: marrone equivale a 1, nero equivale a 0. Se c'è 1, 0 e 0, sono 100 ohm. Poi casomai ti mando la tabella dei colori e tu guardando i colori e guardando le resistenze riesci a capire di quanti ohm è una resistenza, ok? Capo, ecco, quello mi interessa, perché ne ho, c'ho una scatolettina, io siccome sono anche mezzo cibio, mi ho messo addirittura gli occhiali da lente di ingrandimento, non perché sono quelle piccoline, e qua vedo solo due colori, marrone e nero, mentre gli altre ce n'è ad esempio una verde e rossa, una solo verde e rossa, gli altri sono tutti a colori un po' più tutti insieme, capito? No, perché non mi voglio arrendere, non mi voglio arrendere, devo provare, questa già va bene, però volevo provarne qualche un'altra, visto che è facilissimo, c'ho ancora il saldatore qua in mezzo ai piedi, e provarne qualche un'altra e vedere se magari migliora ancora, capito Giù? Ho capito, vuoi fare diversi tentativi, sì, va bene, indubbiamente, però c'è da tenere in considerazione che a secondo del valore della resistenza si cambia anche il valore della capsula, no? Ed è quello che abbiamo ottenuto facendo questa saldatura poc'anzi che è stata fatta. Ad esempio, come stavi dicendo tu poc'anzi, il verde equivale a 5, e cioè la prima fascia verde è 5, se poi la seconda fascia è nera devi fare 5, 0, e poi l'altro ancora nera di nuovo è 0, e devi sommare, moltiplicare praticamente la prima, la seconda e la terza fascia. Poi infine c'è una tolleranza, perché tutte le resistenze hanno una tolleranza, c'è una parte finale che può avere una striscia grigia oppure di un altro colore che adesso non ricordo, forse giallina, non me lo ricordo la verità, dorata. La percentuale di precisione della resistenza del 5%, del 10% eccetera, però se tu hai il test non è un problema qua, metti il valore su 200 ohm o su 20k e hai la resistenza, te dà il valore, te lo dà il come si chiama, lo strumento, insomma, dai, ti dà il valore della resistenza, non è un problema quello qua. Ok, allora l'altro colore aggiuntivo è dorato, sul dorato. Adesso lo provo col test, l'hai detto bene, ma perché no? Che sul test già lo conosco, grazie a Dio. Adesso la provo col test, perché se ne trovo una da 500, io provo a mettere quella da 500 a vedere cosa succede, che valore appunto riesco ad avere di timbrica di modulazione, tenendo conto che rimane il fatto che sempre questa la metto da parte, perché potrebbe essere quella che va meglio di tutti, va bene, no? Sì, no, sta andando bene Claudio, però se vuoi essere più scrupoloso e trovare un valore che si adatta meglio, fai delle prove col test, come hai detto, la cosa più semplice, anziché guardare il calore, perché poi ci sono i moltiplicatori, la tolleranza, vabbè, a te non te ne frega niente qua della tolleranza, perché anche se il 10% non è che ti cambi più di tanto, non stiamo parlando di cose particolari, per cui fai col test, misuri e fai una prova, le mani ne metti una da 100 ohm, da 500 eccetera, e vedi un pochettino come va la differenza, fai dei valori grandi, per dire, da un valore minimo a un valore, per dire, alto, così vedi come è il giusto compromesso, per dire, uno varia 100, prova 500 e poi metti 250 se ce l'hai, vabbè 250 non c'è, 270. Allora, questa che ho provato è da 200, Giulio. Sì, se l'hai trovata da 200 va bene lo stesso, sicuramente va bene. Sai cosa succede qua? Te lo dico subito. Quando tu hai una capsula che ha 600 ohm, tanto per fare un esempio, no? Supponiamo che la capsula originale del microfono sia da 600 ohm. Quando tu gli metti in parallelo, come è fatto poc'anzi, una resistenza inferiore di valore, quella resistenza della capsula si adegua e diventa del valore di quella che hai saldato in parallelo. Mi sono spiegato? Dunque ti devi trovare una resistenza intorno ai 480 ohm per ottenere 500 ohm grosso modo. La striscia oro che hai detto poc'anzi, quello lì è il valore di percentuale, non c'entra niente col valore della cosa. Più o meno il 10% oppure il 5%, capito? Quell'ultima striscietta color oro oppure quella color bianca com'è alla fine proprio della resistenza, non la considerare, quella lì è la percentuale di precisione della resistenza stessa, ok? Perfetto, ecco invece questa che ho misurato adesso, questa però mi sta segnando 470, può essere, o è Rudessa che non conoscevi, o sto misurando male io? 4,70 mi segna. Sì, sì, è giusto, è un valore normale. Certo che è giusto, 4,70 è giusto, qua. Ok, allora adesso io questa da 470 la voglio mettere al posto di questa da 100 e vedere cosa succede, ok? Riprendi, vabbè, che la cambio di nuovo. Guarda, se aspettate, c'ho la calcolatrice, posso fare dei calcoli per sapere quanto è il valore più adatto. Vabbè, ma è inutile poi trovare il valore più adatto, che magari con quel tipo di radio non è, devi cambiarlo anche il valore, magari anziché farla 600 la fai 450 e magari a 480 va meglio, dai. È inutile fare solo il calcolo, però possiamo sapere a quanto corrisponde se ci metti una resistenza di quel valore lì, a quanto la porti giù l'impedenza. Fai il calcolo tu e poi me lo dici, dai, che io apro di nuovo il microfono e lo provo. Sì, ma io ti dico, metti una resistenza da 300 ohm e tu non ce l'hai, devi andare così con quello che c'hai, perché se no poi ti devi fare i valori simili, mettendole una in parallelo, l'altra in serie, quel gruppo di resistenze tutte in serie. Fai prima a prendere, ti misuri la resistenza, la appoggi e vedi, sì, migliora, oppure no, è meglio questa. E io ti dico, fai quello che ti posso dire, che è migliorato o è peggiorato. Vabbè, dai, intanto adesso io voglio provare questa da 470, a vedere se migliora qualcosa. E che il valore di resistenza parallelo è 1 diviso fratto il reciproco della somma dei reciprochi, così si calcola il valore della resistenza parallelo. Quando sono in serie è uguale alla somma dei valori di ogni resistenza. Nei condensatori è esattamente il contrario. Padre Roger, sì, quella formula già me la ricordo, anche se non è che me la ricordavo molto, però me l'hai ricordata tu adesso. Va bene, adesso cambio, vediamo un pochino, tolgo, sto togliendo il tappo, aspetta, riprendi giù. Ok, d'accordo, mi che ti ho mandato una tabella dei colori, guarda anche quella, e così poi hai un bel riferimento su WhatsApp. Sì, ma è così, Robè, io ho notato anche una cosa, tante volte quando parliamo di cose tecniche difficilmente la gente entra in frequenza. Questo significa, secondo me, o può darsi che mi stia sbagliando, ma questo significa che la gente è poco interessata a certi argomenti basati sulla elettronica o Robè. La conferma al 100%, poi ci sono le persone magari che sono appassionate, che si vogliono documentare, io sono il primo quando ascolto e sento persone molto competenti, sono il primo che faccio domande, forse ne faccio pure troppe, curioso, anche per farmi una cultura anche io, ma su tutti gli argomenti, non solo su questi campi qua, no? Se parliamo di hi-fi, di altri generi di cose dove ho passioni, anche io ascolto, non scappo. Poi ci sono i cosiddetti sapientoni che poi si intromettono e dicono tante cose che poi non hanno niente da dire, nel senso della realtà, però si intromettono e dicono e parlano. Adesso stranamente non sento nessuno, perché al limite si può mettere qualcuno anche intervenire e dice guarda, non è mia competenza, però vi sto ascoltando e vediamo un pochettino. Qua stiamo parlando di elementi, proprio cose elementari, collegamento di resistenze in serie parallelo sono proprio l'ABC del coso, come quando inizi a sapere le tabelline a scuola. Questi sono proprio gli elementi più bassi dell'elettronica, la legge di Ohm e collegamenti in serie in parallelo di resistenza. Certamente, adesso mi viene anche tante volte una persona si mette, adesso mi metto il LED blu, tanto per fare un esempio, no? Nello Smith, perché quello che ho è bianco e non mi piace, tutte queste storie qua. Vabbè, è padronissimo di farlo, ci mancherebbe altro. Però non è che lo fanno con cognizione di causa, certe cose non è che le fanno perché effettivamente sono in grado di capire quello che stanno facendo, lo fanno e fanno il tentativo di riuscirci o meno, alle volte ci possono riuscire, ma altre volte solitamente i LED li bruciano. Perché li bruciano? Perché per ogni LED naturalmente sai benissimo che ogni LED, o meglio ogni colore di LED ha un suo bisogno di tensione specifica, tre volte e mezzo, due volte e mezzo, un volte e mezzo, insomma a seconda del colore. Questo cosa significa? Che se tu metti in uno smitter un LED che ha necessità di un'alimentazione da 2 volte e mezzo, tanto per fare un esempio, mentre invece la lampadina che illumina è del 12 volt, ecco che ti brucia subito, immediatamente il LED. La gente queste cose non le ha percepite ancora, o perlomeno quelli della frequenza, la maggior parte delle persone che parlano a baracchino queste cose non è che le sanno, che ci vuole una resistenza di caduta allora in quel caso lì, però per poter mettere una resistenza adeguata bisogna anche conoscere un attimino la legge di Ohm e fare certi calcoli, e allora ci puoi arrivare perfettamente, che è fattibilissimo da chiunque, basta sapere le cose. Certo, assolutamente, poi il LED a seconda dell'alimentazione cambia anche di colore. Adesso le nuove macchine hanno tutti i fanali posteriori al LED, a seconda della tensione di alimentazione si fa la luce gialla, la freccia, oppure la luce rossa dello stop, la luce bianca della retromarcia. Il futuro è quello, diciamo, le lampade a LED sono eterne, non si rompono mai, naturalmente lavorate con le giuste tensioni, eccetera. E così molte volte mettono, sostituiscono la lampadina, come hai detto tu, ma non solo dei baracchini, anche di apparati un po' più importanti, ci mettono, mettiamo il LED, cacchio, ma il LED devi rispettare la tensione nominale, se non li bruci. Se uno è alimentato a 12 volt non li può dare 12 volt al LED se non li mette una resistenza per abbassare la tensione. Sono semplicità, cose semplici, però bisogna saperle, e purtroppo molti si mettono a fare, diciamo qualcuno ha imparato così a forza di bruciare, piano piano riuscire.